Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Puntata numero 414, prima del 2018, nella quale parleremo di un'arte a favore della vita, fratellanza e sorellanza, bilanci bestiali, buon cibo e Lucio Dalla. Speriamo di avervi incuriositi. This was lost, this was my name, this was my truth, this was no game, this was not hope, this was not sane, and from these broken places made, that was lost and this was later, I wanted less but nothing greater. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Dedichiamo questa prima puntata del 2018 agli animali morti a causa dei botti di Capodanno, a quelli domestici che vengono pianti dai loro conviventi umani, come il parrocchetto tigre morto a Roma o la cagnolina Margot morta a Sorso, in provincia di Sassari, ma soprattutto agli animali selvatici, ai quali non si pensa mai e che nessuno piangerà. Ci riferiamo soprattutto agli uccelli, i colombi, gli storni, i corvi, le gazze e poi tutti gli altri. È la prima puntata dell'anno, dicevamo. Tempo dunque di fare un bilancio rispetto all'anno che si è appena concluso. Un bilancio che per noi ha naturalmente a che fare con la questione animale. L'editoriale di oggi è a cura della nostra Roberta Marino. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. L'anno vecchio è finito ormai, cantava in una sua celebre canzone Lucio Dalla. Ma se il caro amico a cui scriveva fosse stato un animalista, cosa avrebbe potuto raccontargli del 2017? Non molto, forse, ma sicuramente, come diceva ancora nel testo, che qualcosa ancora qui non va. Fine anno, tempo di bilanci, si dice, e c'è chi, come la LAV, ne ha azzardato perfino uno di fine legislatura, in attesa delle elezioni a marzo. 5 anni di governo non hanno fruttato grandi novità positive per gli animali, anzi, in certi casi si può parlare perfino di passi indietro. Uno su tutti il rinvio al 2020 del divieto di svolgimento di esperimenti sugli animali per gli xenotrapianti e le ricerche su sostanze d'abuso, sia droghe, alcol e fumo. Una proroga di altri 3 anni di sofferenze per test che dovevano già essere vietati dal 1 gennaio del 2017, merito, si fa per dire, della ministra Lorenzin. Per non parlare poi dell'abolizione del corpo forestale dello Stato. Nato nel 1822, è stato soppresso da Renzi e accorpato ai Carabinieri, dopo due secoli di vita, proprio all'inizio del 2017. Scomparso in questo modo definitivamente uno dei punti di riferimento del mondo animale, che da sempre ha collaborato con grandi associazioni animaliste e ambientaliste quali WWF, LIPU, EMPA e la stessa LAV, associazioni che hanno manifestato il loro dissenso a questa decisione definendola un regalo a ecomafie e a zoomafie. Il 2017 sarà ricordato soprattutto però come l'anno dei rischi e delle occasioni mancate. Se fortunatamente è stato evitato in extremis il tentativo di riaprire dopo 45 anni la caccia ai lupi con un abbattimento selettivo come proposto dal ministro Galletti, così come la riforma della legge sui parchi che avrebbe consentito l'attività venatoria nelle aree protette, sui circhi non c'è stata la svolta sperata. Quella che doveva essere una graduale eliminazione degli animali dagli spettacoli viaggianti si è tradotta semplicemente in un graduale superamento, senza peraltro stabilire da subito il termine temporale per l'attuazione della legge delega, lasciando questo passaggio ancora avvolto in un alone di mistero tra i se e i ma. Del tutto persa invece l'occasione che avrebbe potuto rendere legge le varie ordinanze ministeriali sui bocconi avvelenati, i pali con cavalli e asini e la conduzione di cani aggressivi a causa della cancellazione del disegno di legge del governo in ambito medico-veterinario. Che resta quindi di questo 2017 e dei 5 anni di legislatura che sta per cedere il passo? Non molto. In buona sostanza, solo alcuni adeguamenti dell'Italia ad alcune strette imposte dall'Unione Europea, come quella tanto attesa sull'uccellagione e la cattura dei richiami vivi con trappole e reti, o la riforma dell'articolo 514 del Codice di Procedura Civile, grazie alla quale non sono più pignorabili gli animali d'affezione e da compagnia. Resta invece ancora tutto da attuare quell'articolo 13 del Trattato europeo che riconosce gli animali come esseri senzienti, un'attuazione ormai non più rinviabile e della quale dovranno rispondere una volta per tutte, si spera, governo e Parlamento futuri dopo quel famoso 4 marzo. Perché l'anno che sta arrivando, come diceva ancora Dalla, tra un anno passerà e speriamo non resti solo questa, ancora una volta, l'unica novità. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, ecco come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, vedi, vedi, vedi, vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se questa poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità. È altresì consentito l'ingresso in vasca ad attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversità con i delfini, nell'ambito di specifiche iniziative programmate all'interno delle strutture in possesso della licenza di giardino zoologico che detengono delfini. Questo testo è appena stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2018 e rappresenta l'ultimo regalo del ministro dell'Ambiente Galletti al mercato dello sfruttamento di animali selvatici a scopo ludico. Il ministro dà il via libera alla possibilità per gli umani di nuotare assieme ai delfini nei delfinari. Per farsi un'idea su questa iniziativa è utile sapere che in Italia ci sono solo 2 delfinari e che la possibilità di nuotare con i delfini è stata mascherata da attività di educazione e di sensibilizzazione. È evidente che si tratta di un modo per aggirare il divieto che esisteva fino a ora, per poi ricondurre questo tipo di interazioni a mere attività ludiche o di tipo spettacolare, a beneficio esclusivo di queste 2 attività private. Secondo la psicologa Anna Maria Manzoni, però, lo sfruttamento di animali è diseducativo. E nello stesso modo la pensano gli oltre 600 psicologi che hanno firmato un documento nel quale si esprimono preoccupazioni sul piano pedagogico, formativo, psicologico rispetto alla frequentazione dei bambini di spettacoli in cui vengono impiegati e sfruttati gli animali. Era da un po' in realtà che dal PD e dal nuovo centrodestra vari deputati avevano tentato di far passare una norma che consentisse il nuoto con delfini in cattività. Ci avevano provato addirittura forzando il decreto legge sulle zone terremotate. Poi ci avevano riprovato con la scusa della delfinoterapia. Alla fine Galletti ha optato per un decreto ministeriale, uno strumento che gli consente di non chiedere il permesso a nessuno. Il nuoto con i delfini comporta rischi sanitari e di sicurezza, in quanto i delfini, anche quando sono nati in cattività, rimangono pur sempre animali selvatici. E sono stati documentati tanti casi di aggressione nelle attività di nuoto con i delfini, probabilmente causati dall'impossibilità di questi animali di sottrarsi al contatto con l'umano quando sono, appunto, costretti in vasche. Abbiamo più volte affrontato riflessioni intorno alla responsabilità dell'arte contemporanea nei confronti dell'alterità animale e più in generale sulla necessità di ripensare l'antropocentrismo e di avviare la cultura umana verso una prospettiva biocentrica. Un anno fa, nella puntata 360 di sabato 24 dicembre 2016, avevamo presentato, con un servizio, la mostra I Varchi del Poi, intervistando l'artista friulana Tiziana Pers, che esponeva Nativity, una declinazione animalista dell'Epifania cristiana. La puntata di oggi sarà dedicata in larga parte alla ricerca artistica delle sorelle Tiziana e Isabella Pers, che in tanti modi originali e convincenti stanno lavorando sul tema dell'altro con differenti media: performance, fotografie, video, installazioni, disegni e pitture. Siamo andati a trovarle dove vivono, in provincia di Udine, e abbiamo avuto l'onore e il piacere di visitare il loro magnifico atelier, pieno di atmosfera, nel sottotetto di una grande casa. Ma siamo anche stati nello spazio che hanno dedicato al progetto RAVE, East Village Artist Residency, nel borgo storico di Soleschiano, in provincia di Udine. E abbiamo conosciuto alcuni dei loro animali. Sentiamo il servizio. RAVE è l'acronimo di East Village Artist Residency, al contrario, fondato da me e mia sorella Isabella Pers insieme a Giovanni Marta, portato avanti insieme a un comitato scientifico, ed è un progetto artistico che si caratterizza per il fatto di condividere spazio e tempo con animali salvati dal mattatoio oppure da situazioni di sfruttamento. Quindi in sostanza ogni anno un artista viene qui in residenza e vive insieme ad altri ospiti, ma soprattutto agli animali, la sua pratica e la sua ricerca artistica. Un artista che abbia l'apertura necessaria per poter lavorare sul tema, ma che però non si sia ancora confrontato direttamente con il soggetto. Parte da due prospettive. Da un lato c'è la mia ricerca artistica e dall'altro c'è quello che mi è capitato, ecco, da quando ero piccolina. Quindi ho avuto la fortuna di incontrare i cavalli, piano piano mi sono avvicinata, però sono entrata tramite il mondo equestre, un mondo dal quale poi, con una presa di coscienza graduale, ho preso le distanze. Invece, facendo convergere quello che era la mia quotidianità con la pratica artistica, Lei è Copper ed è con me da 27 anni, lei ne ha 30, è con me da quando ero ragazzina e io con lei facevo i campionati di reining. Come dicevo, io vengo da un background equestre, quindi facevo anche questo, addestravo e facevo gare. Poi nel corso del tempo le cose cambiano e quindi non abbiamo più usato gli speroni, poi non abbiamo più usato l'imboccatura, poi non l'abbiamo più ferrata e adesso vive libera in prato. La serie I See You era stata realizzata in occasione di una performance che si è tenuta a dicembre 2013 al Museo Castello di Rivoli. In questa occasione, durante la mostra di Marinella Senatore Costruire Comunità all'interno del Movieset, avevamo organizzato questa azione. In buona sostanza avevo collegato via Skype un gruppo di bambini, 20 bambini, con Cometa Morena, che era un'asina che era stata salvata dal mattatoio e che in quel momento viveva libera sulle colline di Cividale, a casa di un attivista. L'asina era viva quel giorno e in contatto con loro proprio perché loro erano lì al museo. In qualche modo la loro presenza aveva fatto sì che l'asina fosse viva. In questo modo loro si sono sentiti partecipi della vicenda, degli accadimenti, e hanno iniziato a ragionare su questo. E hanno scritto delle poesie, le hanno scritto i loro pensieri, i loro racconti e glieli raccontavano direttamente tramite questo collegamento Skype, quindi tramite il computer, ovvero un mezzo che tra l'altro sembra essere completamente freddo, aveva fatto sì che loro in qualche modo si vedessero. Perché la cosa interessante poi di tutto questo è stata che i bambini si sono subito sentiti attratti dall'asina, ma anche l'asina ha passato tutto il tempo col naso sul monitor. Qualche volta il collegamento se ne andava e l'asina rimaneva lì in attesa dei bambini. A un certo punto si sono anche messi a piangere, rendendosi conto che c'era il rischio che quest'asina potesse essere uccisa. Poi hanno collegato il fatto che l'asina era in qualche modo come una parte del presepe, perché ci trovavamo a dicembre e quindi per un certo verso sarebbe stato come macellare una parte del presepe. Per loro è stato abbastanza scioccante come idea e infatti hanno iniziato a chiedersi: ma come, ma si mangiano? Gli asini si mangiano? Ma che animali mangiamo? Proprio perché l'asino forse insieme al cavallo, insieme al coniglio, rientra tra quegli animali un po' borderline, che sono da reddito ma sono anche da affezione. Okay. L'asina è stata salvata tramite un procedimento che io chiamo Art History. In sostanza io propongo al commerciante, all'allevatore o al macellaio uno scambio, ovvero di darmi un animale destinato al mattatoio in cambio di una mia opera grande quanto quell'animale, delle stesse dimensioni. E questo è il contratto, appunto. L'animale non lo scelgo io perché sarebbe come mettersi al posto di Dio e quindi è il commerciante, in questo caso io non posso avere la responsabilità di dire tu vivi e tu muori, e lui decide appunto quale animale darmi. L'animale viene recuperato fisicamente, psicologicamente, ma normalmente succede che per questi animali c'è già un'adozione in seguito, ovvero io parto già dall'animale che so di poter salvare proprio perché non ci sarebbe la possibilità di tenere moltissimi animali nel tempo. Poi però ci sono stati dei casi a parte, come per esempio Ugola, lo scorso anno, questa mucca, che è arrivata perché l'allevatore aveva sentito di questa pratica che io portavo avanti. Mi ha chiesto: guarda, io ho una mucca che non posso ingravidare, quindi non può produrre latte, pertanto la devo macellare. Se io ti do la mucca, tu mi dai un dipinto. E quindi in quel caso ho dovuto trovare l'adozione, ma altrimenti funziona in modo leggermente diverso. E mentre appunto gli animali sono qui, si svolge la residenza. Qual è il progetto al quale state lavorando? E adesso lo chiedo a Isabella, sorella di Tiziana, Isabella Pers. Stiamo lavorando a un nuovo progetto per la Biennale dell'Architettura di Seul, a cui parteciperemo nell'ambito di un progetto dell'artista Giuseppe Stampone, che oltre ad essere un bravissimo artista è anche un nostro caro amico. Nell'ambito di questo progetto presenteremo quello che abbiamo chiamato come una bozza di utopia. Tramite il disegno inseriamo, collochiamo gli animali salvati a rave nei magnifici parchi della città di Seul. Da un piccolo paese della campagna friulana, questi animali attraverso il disegno vengono collocati dall'altra parte del pianeta per dare vita in qualche modo a una piccola rivoluzione, a una piccola utopia che ha una nuova visione possibile, dove questi animali non sono più destinati al cibo, non sono più prigionieri, ma sono liberi in questi parchi e condividono gli spazi con gli umani. Ci saranno anche cani e gatti, appunto, che in quella parte del mondo sono cibo per alcuni, per molti. In questo caso abbiamo disegnato Winky, che è il nostro cane che abbiamo salvato da una situazione di disagio profondo, così come delle gatte che abbiamo adottato da dei rifugi. Insieme ai disegni, il progetto per la Biennale di Seul sarà accompagnato anche da dei testi scritti da alcune persone che sono parte di rave, che hanno vissuto rave, che in qualche modo lo descrivono, in modo da dare una visione più completa di quello che raccontiamo, di questa utopia in trasferta. Oggi parliamo dei Gorilla Biscuits, una band hardcore newyorkese formatasi negli anni '80. Il nome della band deriva dal termine usato nella zona di New York per indicare un farmaco chiamato Gorilla Biscuits. Per le grandi dimensioni delle sue pillole è usato come droga da sballo tra i giovani nordamericani. Nel 1989 è stato messo in commercio il loro primo album intitolato Start Today. All'interno troviamo la canzone Cats and Dogs, che parla dell'ipocrisia delle persone che trattano gatti e cani con amore e affetto, mentre sostengono un'industria della carne che tortura animali ugualmente senzienti. Iniziamo l'anno con la follia hardcore e lasciamo Camilla pogare al suo destino. Buon ascolto. So I do what I can. I wanna see. Nella prima puntata del 2018 è tempo di bilanci, anche gastronomici. Ecco la prima ricetta del nuovo anno, sempre a cura del nostro tosco vegan chef, Gabriele Palloni. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. E bravi biscari, che anche per queste feste, al fine di dimostrare a tutta la nostra reticente orda di familiari che si può banchettare in allegria cucinando vegan, abbiamo saccheggiato supermercati, svuotato frigoriferi e adesso la nostra bilancia sta chiedendo perdono per i nostri peccati di gola. Ebbene sì, il nostro spirito di redentori cruelty free ci ha fregato anche stavolta. E allora iniziamo l'anno con una zuppa trentina molto semplice che non ci farà rimpiangere i bagordi natalizi. Licantropo vegano, gli ingredienti per 4 persone per la zuppa di farina tostata sono 1 litro di brodo vegetale, 300 g di patate, 100 g di farina tipo 0, qualche foglia di alloro, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, 2 fette di pane di segale, sale e pepe. Iniziate preparando un ricco brodo vegetale. Quando sarà pronto, lasciatelo raffreddare bene. A parte, lavate le patate e lessatele in acqua bollente. Scolate e sbucciatele. Quando si saranno intiepidite, tagliatele a quadretti. Fate scaldare una padella sul fuoco senza mettere niente all'interno e quando sarà ben calda, versate la farina e fatela tostare a fuoco medio, fino a quando non avrà raggiunto un colore ambrato, facendo attenzione a non bruciarla. Togliete dal fuoco e versate in un tegame o una pentola. Aggiungete a poco il brodo freddo mescolando con una frusta. Unite le foglie di alloro e mettete sul fuoco. Sempre mescolando, portate ad ebollizione, aggiustando di sale e pepe. Quando avrà raggiunto il bollore, unite le patate e fate cuocere per 10 minuti. Nel frattempo, tagliate il pane di segale a quadretti e passatelo in padella con un cucchiaio di olio extravergine. Servite la zuppa ben calda con i crostini di pane di segale. Licantropo vegano. Licantropo millennial. Vacche di Goji. E siamo in chiusura, vi saluta la nostra redazione al completo che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 415 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde. Stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.